Sì, anche a me, il campanile di Saverio. Oh, agli altri ci sono riuscito, è impossibile che a te non riesco. Perché non è che non posso fare sempre ad auto, perché auto invece bisogna anche cambiare qualche volta. Prova, sembra come schianto, i concessionari voi siete in questi